si può guardare al passato idealizzandolo, perché effettivamente la generazione, diciamo, dei nostri padri, noi ci siamo ribellati con il 68 giù di lì, chi ci è arrivato in tempo, chi un po' dopo, ma insomma, sostanzialmente siamo stati i primi a ribellarci ai nostri padri. Il problema è che siamo diventati i primi ad obbedire ai nostri figli, e questo secondo me non va bene. È vero che che la generazione di oggi può godere di più agi rispetto a quella precedente, e viva Dio, probabilmente noi abbiamo vissuto nell'età dell'oro, nessuna generazione nella storia è stata più ricca di noi occidentali, europei occidentali negli ultimi 20 anni, però il punto è che noi abbiamo fatto credere ai nostri figli, figlie comprese, quindi dico che appunto è la stessa cosa, abbiamo fatto credere ai nostri figli che questa progressione verso il benessere fosse automatica, normale e senza sforzi. Invece, ahimè, ci stiamo accorgendo, e ci stanno accorgendo i nostri figli in questi giorni, in questi anni, che così non è, che la competizione invece è aspra, che la sofferenza sociale può essere forte, come in momenti di recessione come questi, e io penso che noi abbiamo ingannato i nostri figli, perché gli abbiamo fatto credere che tutto sarebbe stato facile come era stato per noi. Questo è il rapporto che stabilisco tra le due generazioni.